Buon pomeriggio. Radio Onda Rossa 87900, la modulazione di frequenza, giovedì 22 ottobre del 2009, le 14 in punto. Consueto appuntamento settimanale con il cinema. Questa è Visionari. Ogni giovedì dalle 14 alle 15, e per saperne di più la scaletta è sul sito della radio, sia www.ondarossa.info, per vedere, riascoltare intanto la puntata precedente c'è il link, poi vedere gli ospiti di questa puntata, della puntata di oggi, poi le uscite del weekend cinematografico e poi i nostri suggerimenti sui film già in programmazione a Roma e nel Lazio, idem per quanto riguarda la settimana televisiva, i film su piccolo schermo e poi i link per dare un'occhiata a interviste, recensioni, conferenze stampa che abbiamo realizzato. Cominciamo subito i nostri ospiti, la parola a loro. Bentornato Giorgio Diritti, eccoci qui caro. Carissimi, bentornati a voi, o meglio ben rincontrati. Allora, con te oggi per parlare del tuo nuovo film, L'uomo che verrà, presentato in concorso al Festival del Cinema di Roma. Devo dire, io ero alla proiezione, applausi finali, e ieri la conferenza stampa densa, estesa, e insomma con domande interessanti, mi sembra che sia andata bene, insomma, nel complesso. Sono molto contento perché comunque il film era delicato, intenso, dedicato e intenso, intendo nel senso produttivo, realizzativo, emotivo, insomma c'era il rischio di cadere in varie trappole, come si suol dire, e invece la risposta del pubblico mi è sembrata veramente calorosa e ne sono molto molto contento, perché spero che con il film battino soprattutto anche le cose che il film vuol dire sotto traccia, insomma, al di là dell'evento storico cosiddetto. Allora, per chi ci ascolta facciamo un po' di luce. Si tratta, hai affrontato l'argomento della strage di Sant'Anna di Stazzema nel 1943 ad opera dei soldati tedeschi e delle SS. Marzabotto, è vero, nello specifico Montesole poi. Sì. Si parla di quasi 800 vittime civili, per lo più donne, bambini e vecchi. Raccontaci un po', insomma, come è stata la genesi di questo momento importante, realizzativo del film, anche perché tra l'altro come memoria storica è significativo nel momento in cui il processo per quell'eccidio è arrivato a 60 anni di distanza, un paio di anni fa, alla Spezia. Sì, il percorso per me nasce parecchi anni fa, quando è stato dato un libro e quella che io conoscevo come strage di Marzabotto da due righe dei testi scolastici, insomma, si è rivelata nella storia di tanti uomini e di tante persone. Io ho sentito un po' una specie di impegno morale, non so come dire, interiore, nel dare voce e dignità a queste persone, dare dignità alla loro morte, e quindi a far sì che il loro sacrificio fosse nel tempo qualcosa che serve per far sì che il futuro fosse simile a casa. La realizzazione poi del film è stata faticosa, difficile, ma a un certo punto credo anche nell'ottica giusta ho capito che lo sguardo principale doveva essere quello di una bambina, cioè di chi è ancora innocente, di chi è ancora giovane, e vede le cose con la speranza, ma anche con la capacità di scoprire i limiti dell'uomo adulto che certe volte fa delle cose che non sono coerenti e non hanno senso. Oh, Giorgio, dal punto di vista tecnico, la prima impressione è stata quella di una coerenza con il tuo percorso artistico, nel senso, ripensando al Vento Falso Giro, film premiatissimo in Italia e all'estero, lo abbiamo premiato anche noi come trasmissione. Esatto, con piacere ricordo anche il vostro premio. Allora, di nuovo ambientazione montanara, di nuovo parecchi interpreti presi tra gli abitanti del luogo e di nuovo dialetto stretto. Spiegaci un po' questa direzione che stai seguendo. Ma la direzione nasce dalla realtà delle cose, nel senso che quando si affronta una storia, in primo luogo credo importante dare le sensazioni di verità, far sì che lo spettatore si senta in quel tempo, in quell'atmosfera. Ma mi viene sempre da pensare che in un certo senso deve sentire anche gli odori che non ci sono. E in questa logica quindi i volti antichi, la lingua di allora hanno un senso. Poi la coincidenza vuole che i due film che ho realizzato abbiano queste due componenti, perché le storie avevano bisogno di questa cosa. Forse sì, in un film futuro invece non ci sarà questa caratteristica. Diciamo che la matrice comune sicuramente mia è quella di una grande attenzione a un realismo, magari per essere poi rielaborato, ma la logica è prendere per mano lo spettatore e fare un viaggio nel tempo o nel luogo. Giorgio, l'altra impressione è quella di un rigore nella ricerca. Tu ti sei basato soprattutto sull'incontro che hai avuto con i sopravvissuti a quell'eccidio. Raccontaci un po' di questo aspetto. Sì, la fase di ricerca è stata lunga e una delle più delicate, perché ha voluto dire leggere testimonianze, libri che analizzano la storia dal punto di vista militare, leggere le biografie delle SS o i manuali delle SS, ma soprattutto incontrare i sopravvissuti a questa strage o i partigiani, persone che si sono trovate in età molto giovane, per lo più bambini, a vivere un qualcosa che li ha segnati per tutta la vita. Questo è stato molto doloroso per loro, doloroso per me, è stato un qualcosa che mi ha portato certe volte la sera veramente a non riuscire a dormire, perché poi nella sofferenza, nella fatica di una situazione del genere ci si trova anche a chiedersi perché si è sopravvissuti quando gli altri 7-8 familiari invece sono tutti morti, e ci si sente magari condizionati da meccanismi, diciamo, come è stato nel dopoguerra, dove arrivano addirittura le minacce da parte di qualcuno che ti fa intendere che i tedeschi potrebbero tornare e farsi sparire se parli troppo, o addirittura questo anche in ambito italiano rispetto ad alcune situazioni legate alla resistenza. Quindi questo, insomma, è stato un percorso faticoso, ma anche man mano responsabilizzante, che mi ha fatto sentire sempre più il bisogno e la necessità, perché in fondo pochi anni di vita nella storia della Terra, in un certo senso, separano ognuno di noi a quelle persone. Sì. Avremmo potuto essere noi lì, sì, e rischiamo, se non stiamo attenti alle ideologie che ci sono in giro, di ritrovarci nella stessa situazione. Dobbiamo, credo, imparare a difendere ogni valore che contempla l'identità e l'uguaglianza degli uomini, andando a respingere tutti gli elementi di razzismo, anche quelli che sembrano superficiali, magari anche le battute, perché un giorno da queste si può scatenare un meccanismo che fa ammazzare i nostri simili come se fossero delle mucche, dei topi, eccetera. Giorgio, l'uomo che verrà avrà una distribuzione, un progetto, seguirà anche un progetto scolastico e una cura particolare alla proiezione nelle zone interessate, ossia nella zona di Marzabotto dove si è svolto l'eccidio. Parte dei sopravvissuti non lo vedranno, perché riaprirà una vecchia ferita che ancora non è possibile che si rimargini, insomma. Però, insomma, l'impegno sul territorio mi sembra garantito. Sì, sicuramente per la provincia di Bologna, per così dire, questa vicenda è ancora molto sentita, molto forte, quindi il percorso di memoria su quel territorio lì sarà proseguito. Peraltro però il primo obiettivo del film è quello di aprire questa memoria all'Italia intera, all'Europa, al mondo, se volete. Perché in questo senso c'è appunto, come dicevo prima, una speranza di cambiamento. Il film sarà distribuito da Mikado nelle sale da gennaio e insomma ci auguriamo che possa proseguire il percorso di ieri sera con un'accoglienza del pubblico veramente calorosa. Ah, ecco, la proiezione per il pubblico, io ero a quella della stampa, quindi quella del pubblico è andata altrettanto bene. Sì, sì, molto molto bene, con grande emozione e anche condivisione e anche apprezzamento, insomma, per cui veramente è stato molto positivo. Bene. Giorgio, allora sicuramente noi ci risentiremo per l'uscita in sala, nel frattempo ti abbraccio e ti auguro in bocca al lupo. Io ringrazio tutti gli amici visionari che con energia amano e difendono il cinema e anche le buone idee. Ciao Giorgio, a presto. Ciao, un abbraccio. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Giorgio Diritti, regista del film L'uomo che verrà, presentato in concorso al Festival del Cinema di Roma e poi sarà in distribuzione in Italia prossimamente, ma avremo modo di riparlarne. Continuiamo ancora col Festival del Cinema di Roma, questa volta con un documentario. Ben ritrovato Claudio Giovannesi, pronto? Ciao, ciao a tutti. Qua. Come stai, caro? Bene, tu come stai? Bene, bene, bene. Allora, intanto complimenti per il tuo documentario, Fratelli d'Italia, presentato al Festival del Cinema di Roma. Soddisfatto? Mi è sembrata una calorosa accoglienza. Molto soddisfatto, grazie dei complimenti, sono felice di essere qui a Radio Onda Rossa, come sempre. E, sì, una calorosa accoglienza, devo dire anche superiore alle aspettative, perché insomma è un documentario che parla di tre adolescenti non italiani e c'è stata una rassegna stampa, diciamo, su tutti i quotidiani, quindi vuol dire che si sente l'esigenza di racconti del genere. Sì, sì, sì. Allora, tre figli di migranti, quindi italiani di seconda generazione praticamente. Praticamente sì. Tutto questo si svolge ad Ostia, dove tu avevi già realizzato un lavoro su uno dei tre in particolare, che è Welcome Bucharest. Esatto. Raccontaci un po' com'è la genesi di questo progetto, come l'hai portato avanti. Dunque, il progetto nasce nel 2007 a braccetto con il produttore che è Giorgio Valente, che aveva un cinema molto importante a Roma, poi è stato sfrattato, il Labirinto. È un cineclub. Sì. E lui abbiamo parlato proprio con lui, sì, sì, sì. E lui è anche adesso al cinema Greenwich, insomma un esercente che voleva realizzare una produzione documentaristica. Lui ha un progetto che si chiama EduCinema, che probabilmente consiste nell'insegnamento del cinema nelle scuole di periferia. E mi ha chiamato, sapeva che stavo per realizzare un film in Marocco, La casa sulle nuvole, quello che ho fatto a maggio, e mi ha detto se volevo andare a vedere questa realtà multietnica, sapendo il punto che andava incontro al mio interesse, perché c'è la periferia a Roma, Ostia soprattutto, è un quartiere, è una zona assolutamente multietnica, le periferie per loro natura, anche per motivi tecnici, hanno questa ricchezza multiculturale, multietnica rispetto alla città. Mm-hmm. E in particolare in questa scuola, in questo istituto tecnico, il Toscanelli, dove il 20% circa degli studenti erano non italiani. Io sono andato là e li ho incontrati uno per uno e era bellissimo perché venivano da qualsiasi parte del pianeta. Mm-hmm. Ho iniziato a raccontargli il mio progetto, che volevo fare un documentario, quelli pensavano che dovevo fare una cosa tipo Quark, Corleone, Capre, non capivano bene, gli dicevo no, guarda, devo raccontare semplicemente la vostra vita, le vostre storie, e ne ho scelti tre, appunto, un rumeno, un egiziano, una bielorussa, che sembra una barzelletta, e ho raccontato i loro conflitti. Ovviamente le storie sono state scelte anche in base a questo, nel senso che ho scelto le storie più conflittuali, per un motivo di racconto, ma soprattutto perché attraverso il conflitto è più facile raccontare quello che significa l'identità e l'adolescenza, insomma, perché poi sono tre adolescenti, al di là del loro sangue. Infatti i momenti più forti sono proprio quelli del confronto, soprattutto con gli adulti, sia insegnanti che genitori. Sì, assolutamente. Gli insegnanti, che poverini, ovviamente adesso un insegnante, soprattutto in una scuola del genere, deve avere degli strumenti in più. Perché insegnare Petrarca a un ragazzo italiano già è complicato, insegnare Petrarca a un ragazzo rumeno che è appena venuto in Italia e sempre allora italiano richiede uno sforzo ulteriore di comunicazione, quindi insomma anche lì il solito discorso che l'integrazione non è solo quella degli stranieri che vengono qua, è soprattutto la nostra, che vuol dire una disposizione d'animo maggiore, una curiosità ulteriore verso una realtà, grazie a Dio, nuova, non medievale come quella che vogliono chi ancora parla di identità nazionale, tutte quelle stupidaggini, insomma. Senti, i momenti più intensi, quelli anche con urla, lacrime, come sei riuscita? Sembra tutto molto naturale, anche la tua presenza lì con la camera da presa. Ma lì viene soprattutto dallo, cioè nel senso, una cosa che dico spesso, che il momento delle riprese poi paradossalmente è quello più semplice, è tutto prima il lavoro. Sì. Ovviamente non si può andare là con gli occhiali da sole e stare a distanza, cioè là bisogna creare dei rapporti interpersonali, perché queste persone, genitori, figli, studenti, ragazze, quello che vuoi, ti fanno entrare in casa, ti fanno entrare nella dimensione privata. Il racconto c'ha senso solo se si sta nella dimensione privata senza essere invadenti. Di conseguenza, una volta che si crea quel livello di intimità, che è un livello di intimità come si ha con un amico, non è un'osservazione a distanza, è tutto il contrario, è un'esperienza umana, si fanno delle conoscenze con degli esseri umani, si sta a cena insieme, si fa colazione insieme. A quel punto tirare fuori una telecamera non cambia nulla, perché tanto quello che sta accadendo nella loro vita accade davanti ai tuoi occhi comunque, perché ne sei coinvolto e ne sei partecipe. Oh, un'altra cosa che mi ha colpito, dopo la proiezione i loro commenti, i commenti di loro tre protagonisti a come si erano rivisti in maniera anche critica rispetto a determinati atteggiamenti, e hanno specificato che insomma quello rappresenta una fase della loro vita. Questo mi è parso un buon risultato. Anche a me mi ha emozionato molto questa cosa. Io addirittura avevo chiesto all'inizio, prima della proiezione, al Festival di Roma, che loro non fossero coinvolti nel dibattito, ma per premura, per difenderli, perché ogni tanto si espongono insomma a qualche cosa di grosso. C'è l'egiziano che dice a un certo punto che ha gli amici fascisti, vuole bruciare gli ebrei. Non volevo che nessuno chiedesse spiegazioni a loro, volevo che le spiegazioni fossero rivolte a me, perché ero io che li avevo raccontati. E invece c'è stata una domanda del pubblico che ha chiesto un intervento dei tre ragazzi. I tre ragazzi invece, è stato un momento molto emozionante, perché c'è sicuramente un momento di crescita nel rivedersi, che è sia uno specchio, allo stesso tempo c'è un punto di vista esterno, quindi alla fine c'è in qualche modo forse pure un valore pedagogico, nel senso che hanno in qualche modo compreso tutto quello che stava accadendo, che anche se i momenti in cui erano meno belli, perché poi è un documentario che non vuole essere politicamente corretto, anzi, i momenti in cui erano un po' più amorali o più adolescenziali o più violenti sono stati visti e compresi in qualche modo, credo, e questo è stato un buon risultato, sì. Senti, come è stato l'atteggiamento? Mi sembra di ampia collaborazione quello dell'istituto. Totale, di ampia generosità. Io poi ho anche insegnato un anno in quell'istituto, appunto ho fatto parte di questo progetto, in modo che la mia presenza fosse ancora di più intima e non esterna. E totale, ma anzi è proprio grazie alla generosità prima di tutto dell'istituto che è stato possibile realizzare questo documentario, perché non c'è stata assolutamente nessuna ritrosia. Gli insegnanti che hanno scelto di collaborare e di apparire nel documentario e quindi di esserne parte hanno fatto vedere anche i lati più difficili del loro mestiere, perché in quelle classi spesso succedono situazioni difficili da gestire, non sempre gli insegnanti ci riescono, ma nonostante questo non è che hanno detto adesso no, non mi riprendere, che in questo momento sono in difficoltà, anzi hanno porto le loro difficoltà, è quello che secondo me poi rende più ricco il racconto e quello che succede nel film. Un'altra cosa, Claudio, che mi ha sorpreso in maniera positiva è l'atteggiamento degli studenti invece italiani e dei loro genitori nei confronti delle altre etnie che compongono queste classi multiculturali. Nel senso l'apertura che in qualche l'apertura, modo. Sì. Sì, ma infatti quella è una cosa bella, perché cioè nonostante, non lo so, gli italiani poi come vengono rappresentati nei telegiornali sono razzisti semplicemente, invece soprattutto nei quartieri in cui sono andato a fare il film, quindi soprattutto Ostia, Tor di Valle e Quadraro, c'è assolutamente un'ospitalità, bello questo, perché alla fine siamo un paese ospitale sotto sotto, e la, nella fattispecie ci sta una scena in cui ci sta questo ragazzo egiziano, c'è una fidanzata italiana, l'egiziano da Ostia, l'italiana al Quadraro, si frequentano a casa dei genitori di lei, degli italiani, e nonostante, che ne so, il luogo comune, uno si immagina, no, mia figlia non deve stare con un arabo, invece no, l'arabo è accolto in casa e si cena insieme, c'è un livello assolutamente intimo anche là di, e non privo di pregiudizi. Senti Claudio, per quanto riguarda eventuali proiezioni televisive, passaggi televisivi o distribuzione in sala? Adesso sono proprio questi giorni caldi, nel senso che adesso non c'è ancora nulla di certo, però speriamo sicuramente in un passaggio televisivo sui canali di Sky, quindi Cult e così, e poi c'è anche l'ipotesi di una piccola distribuzione in sala, e ancora insomma stanno vedendo con quale distributore affrontare questo procedimento. E per chi volesse saperne di più, avete realizzato anche un sito internet, cioè ci sono informazioni? No, ancora in rete? Non c'è un sito internet, ci sarà, per chi vuole vederlo c'è su YouTube il promo, basta andare su YouTube Fratelli d'Italia promo e si vedono 3 minuti, che è un estratto abbastanza significativo del film. Bene Claudio, allora ancora grazie per essere stato di nuovo qui, e ci vediamo e ci sentiamo presto. A presto, grazie Federico, un ciao, abbraccio. Claudio. Claudio Giovannesi, regista del documentario Fratelli d'Italia, presentato al Festival del Cinema di Roma. Restiamo sempre al Festival per parlare di un altro documentario. Bentornato Gianfranco Pannone, regista del documentario Mota Manet, ci sei? Sì, ti sento molto lontano, ma ti sento. Io ti sento molto vicino. Sì, perfetto, allora non urlo. Allora, raccontaci un po' questo lavoro che nasce da altre basi. Beh sì, parliamo di Mota Manet, sì. No? Questo documentario breve che ho realizzato con gli allievi del corso di regia dell'Accademia dell'immagine dell'Aquila. Niente, tutto parte dal fatto che io insegno lì regia del documentario da un po' di anni, e stavamo mettendo su appunto un lavoro su Ignazio Silone, sulla figura di Ignazio Silone, che come sapete insomma è abruzzese, quando poi è arrivato il terremoto, e 3 mesi dopo, rincontrandoci dopo insomma la tragedia di aprile, abbiamo pensato di fare comunque qualcosa, sì, lavorando sempre su Ignazio Silone. E sì, allora ci è sembrato interessante confrontare vecchi e nuovi terremoti, il terremoto appunto di oggi e il terremoto di ieri raccontato da Silone appunto nel suo uscita di sicurezza, il terremoto di Avezzano, quello del 15, dove lui perse anche la madre. Diciamo passato e presente che si incrociano con un monito di Silone, interpretato da un grande Filippo Timi, che ammonisce non tanto e non solo sul terremoto, ma su quello che può accadere post terremoto, cioè in termini anche di speculazione, dell'approfittare della situazione, una cosa che quindi ci riporta all'oggi, diventa appunto, ripeto, un po' un monito. Questo qui c'è una importante analogia, perché a Tagliacozzo ad agosto al festival, sì, al festival teatrale, è andata in scena, io c'ero, la la prima rappresentazione, sì, esatto, con una lettura musicata dal vivo ed è basata proprio sui testi di Silone riguardanti il terremoto, ed è la prima realizzazione del Teatro Stabile d'Abruzzo dopo la tragedia. Ma sai che oggi ci ritroviamo un po' a scoprire la figura di Silone, perché sì, dicendocela tutta e da sinistra, cioè da una posizione mia di sinistra, Silone è stato un po' emarginato per le sue scelte. È stato l'antagonista di Togliatti durante lo stalinismo, è stato l'uomo che ha scelto una via socialista piuttosto che comunista nel dopoguerra, e quindi in qualche modo intorno alla figura di Silone, scrittore ancora conosciutissimo all'estero, si è creato un po' un silenzio, sì, chiamiamolo discutibile, insomma, e quindi oggi lo si riscopre, cioè andare a rileggersi le pagine di Uscire di sicurezza, che fu un libro di saggi pubblicato nel 65, insomma è fonte di non solo di informazioni ma di conoscenza sulla storia dell'Italia, sul vissuto stesso di Silone, che è proprio un tipico uomo del Novecento che ha vissuto anche con tutte le sue contraddizioni il suo secolo, no? Ultimamente sono uscite fuori anche delle polemiche sul fatto che lui potesse essere un delatore per compito del fascismo, insomma, perché aveva il figlio, il fratello minore in carcere durante appunto i primi anni del ventennio. Insomma, in qualche modo la figura di Silone diventa una riscoperta, secondo me, come uomo emblematico, e quindi ci metto il bene e il male del Novecento. E da qui appunto la messa in scena di Uscire di sicurezza, oppure il mio tornare con i ragazzi della scuola dell'Accademia dell'Immagine, sulle parole di Silone che arrivano come macigni anche a proposito dell'oggi, di quello che si sta rivivendo adesso in Abruzzo per quanto riguarda la ricostruzione. Senti, immagino sia stata un'operazione importante per i tuoi allievi. Ma spero di sì, non sta a me giudicare. Sicuramente era importante dare un segno. Era importante dare un segno. Sì, sì. È stato, vabbè, si sono credo impegnati in questo lavoro, hanno messo tutte le loro energie. Io l'ho vissuto anche in prima persona perché lo sentivo anche molto mio, ma l'ho voluto condividere con i ragazzi proprio perché il segno era quello di una presenza, sì, di qualcosa che era già cominciato prima del terremoto e sulla quale era d'obbligo non fermarsi, insomma, e su questo ci siamo trovati tutti quanti d'accordo, per cui anche abbastanza velocemente abbiamo realizzato questi 10 minuti di documentario, e ne siamo molto felici, insomma, ieri lo commentavamo appunto dopo la proiezione. Senti, il loro sguardo, qual è la cosa che ti ha colpito principalmente rispetto appunto al loro modo di vedere quanto è successo e al loro... Io la cosa che mi ha colpito di più è che i ragazzi conoscono poco Silone, perché Silone oggi si conosce poco. Okay. Per me che sono cresciuto a pane e Silone, cioè a 14 anni mi trovavo già in qualche modo a leggere i primi romanzi come Fontamara, come L'avventura di un povero cristiano, Vino e pane, è stato abbastanza sconvolgente che dei ragazzi anche abruzzesi non lo conoscessero. Mm-hmm. Però la cosa che mi ha colpito è che quando sono andati a leggere si sono subito incuriositi, cioè scoprivano qualcosa di cui nessuno gli aveva parlato. Io ricordo un mio professore al liceo, quindi sì, molti molti anni fa, parliamo dei inizi anni 80, sì, che era un comunista ed era per noi un punto di riferimento, perché era un professore intellettuale, una persona straordinaria, a Latina, dove sono cresciuto, che quando gli dissi che leggevo Silone, disse: ma come? Leggi ancora Silone? devi leggere Vittorini, per dire, no? Insomma, sì, in qualche modo intorno a Silone si è creato, ripeto, quel silenzio per cui oggi i giovani non lo conoscono, e per questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi che mi hanno seguito in questa piccola avventura, è stata una scoperta, insomma, appunto andare a leggere questo grande scrittore. Senti, su internet c'è modo di saperne di più rispetto a questo lavoro? Ma per ora no, ma magari andando su www.gianfrancopannone.spinder.com, che è il mio sito. Poi credo che anche l'Accademia sul sito pubblicherà qualcosa. Però si potrà vedere il cortometraggio fra un paio di settimane, esattamente il 6 di novembre, a Sulmona Cinema, dove ci sarà la prima abruzzese fondamentalmente del lavoro, insomma. E poi spero che lo portiamo in giro un po' dappertutto, insomma, speriamo bene. Va bene, ma quindi le strade su... di un cortometraggio oggi sono più fortunate che in passato. Sì, è vero. Quindi sul tuo sito ci sarà, renderai note anche le prossime tappe, insomma, del lavoro. Sì, sì, okay. Io sul mio sito riferirò le tappe e credo che lo farà anche l'Accademia dell'Immagine, appunto www.accademiadellimmagine.org, che è la scuola dell'Aquila dove appunto insegno e che adesso riprende finalmente l'attività in quel luogo, quella caserma della Guardia di Finanza dove è stato ospitato il G8 quest'estate. Lì ci saranno i locali e lì riprenderanno i corsi, che mi sembra un segnale importante, insomma. Gianfranco, un abbraccio, noi ci risentiremo presto. Grazie a voi, buon proseguimento. Va bene, ciao, alla prossima. Gianfranco Pannone, regista del documentario Immota Manet, e andiamo avanti per parlare di ancora di documentari. Bentrovato Mario Chemello del gruppo organizzativo DER, direttore di Doc Under 30 a Bologna. Buongiorno a tutti. Dal 23 al 24 ottobre, noi ci siamo già sentiti per una scorsa edizione, credo. Sì, ci siamo sentiti l'anno scorso, ormai diventiamo degli abituati, ci siamo sentiti l'anno scorso in occasione dell'edizione di Modena. Sì, sì, sì. Perché sì. Doc Under 30 è nato un po' con l'idea di essere un festival, una rassegna più che un festival itinerante nell'ambito regionale, e quest'anno siamo finiti a Bologna. Oh, intanto con piacere ho notato che ci stavi ascoltando in streaming. Sì. E sì. Poi, allora, per chi ci ascolta, raccontiamo un po' la realtà sia della DER che di questo piccolo festival, questa rassegna itinerante che mettete in piedi. Sì, dunque la DER è l'associazione dei documentaristi dell'Emilia-Romagna, che riunisce un po' autori, registi, produttori e anche, diciamo così, figure tecniche, direttori di fotografia, operatori, montatori, così, che sono attivi in Emilia-Romagna. E l'associazione è nata, diciamo così, se si può dire, da una costola di DocIt, dell'Associazione Nazionale, e da 4-5 anni è estremamente attiva e ha come finalità principale quella di promuovere la cultura del cinema documentario nel territorio emiliano. Di conseguenza la nostra attività principale è proprio quella di organizzare rassegne, di organizzare singole proiezioni, quasi sempre in concorso con la Cineteca di Bologna, e di organizzare incontri anche fra registi, che lo stesso anche in quella delle giornate degli autori sono un evento che si svolge ormai ogni anno, da 2 o 3 anni a questa parte. Insomma, diciamo così, tenere alta l'attenzione su tutto quello che riguarda il mondo del cinema documentario. Allora, la prima domanda è, rispetto a una situazione nazionale che mi sembra piuttosto vivace dal punto di vista del documentario, volevo sapere in Emilia-Romagna cosa si sta muovendo. Dunque, guarda, in Emilia-Romagna si sta muovendo moltissimo, come in tutto il resto d'Italia, come hai detto giustamente, e sotto il profilo produttivo e soprattutto sotto il punto di vista dell'iniziativa dei giovani. Sì. Nel senso che nel mondo, per l'appunto, degli under 30, moltissimi hanno scoperto il fascino del cinema del reale, e in moltissimi, come dire, stanno provando a fare i loro primi passi, insomma, i loro primi esperimenti, e complice un po' il dance, dove gli insegnamenti di cinema documentario sono aumentati e in qualche modo raccolgono un favore sempre maggiore negli ultimi anni. e purtroppo c'è un po' il problema, che è un problema nazionale e da noi è particolarmente sentito, c'è un problema della scarsità dei mezzi di approvvigionamento, soprattutto tramite gli enti pubblici, no? Parlo di approvvigionamento finanziario ovviamente, sì, sì. Però insomma anche sotto quel punto di vista, un po' anche grazie al nostro contributo e un po' autonomamente, si sta creando una certa sensibilità negli amministratori pubblici, per cui riusciamo, diciamo così, a far sempre meglio, ecco, anche se la strada è ancora molto lunga. Senti, come funzionerà questa due giorni bolognese? E poi in riferimento anche a questo, volevo chiederti se poi avete strutturato una serie di iniziative, come per la scorsa edizione, con più sale coinvolte, più luoghi della regione che manderanno in gli stessi documentari ciclicamente, insomma. Allora, dunque, la manifestazione di quest'anno si organizza sempre in due giorni, sì. Nelle mattinate ci saranno degli eventi, diciamo così, particolari, nei due pomeriggi invece andranno in proiezione i documentari che sono in rassegna, in concorso, perché oltretutto un'altra novità di quest'anno, per il primo anno, è che ci sarà un premio, perché quest'anno la manifestazione è stata organizzata insieme all'università, al DAMS nella fattispecie, mm-hmm. e ci sarà una giuria popolare di studenti del DAMS che daranno un premio che viene offerto un po' da noi e un po' da un'azienda privata, da uno sponsor privato, e quindi i documentari in rassegna verranno discussi in sala anche insieme, cioè dagli autori, oltre che insieme al pubblico, anche insieme ai ragazzi che fanno parte della giuria. E questo anche per incentivare proprio fra i giovani una riflessione anche comune, collettiva, diciamo così, pubblica, no? Sugli strumenti del raccontare la realtà proprio con i mezzi della realtà e non della finzione. Sì. E dunque la prima mattina, domattina, c'è un incontro dedicato principalmente alle scuole, a cui parteciperanno studenti delle scuole secondarie di Bologna, un incontro dedicato all'autorappresentazione, diciamo così, dell'immigrazione giovanile, ossia il tema generale appunto all'immigrazione, e noi puntiamo proprio facendo vedere agli studenti due documentari, uno Io, la mia famiglia Rom e Woody Allen di Laura Alilovic, un cognome difficilissimo, una ragazza Rom di Torino che parla di se stessa e dei suoi della sua vita quotidiana, sia scolastica sia extrascolastica, in una città del nord Italia. Oggi lei è una ragazza nata in Italia, per cui diciamo completamente naturalizzata italiana, che però vive nei campi Rom insieme alla sua famiglia, e di questa vita parla. Il secondo documentario, che si intitola Lettere a casa, di Claudio Lanteri, è un racconto di alcuni giovani immigrati invece, di arrivo recente, immigrati da uno o due anni al massimo in Italia, che scrivono delle ideali lettere alla famiglia a casa, raccontando un po' le loro sensazioni, il loro malessere, anche i momenti di gioia della loro vita da immigrati e soprattutto dei loro rapporti con i compagni di scuola italiani e stranieri. Mm-hmm. Ecco, nel corso della mattinata queste due proiezioni verranno discusse e commentate in sala con gli studenti dagli autori naturalmente, e da una docente del DAMS, Angelita Fiore, e da un'altra docente però di scuola media secondaria, che ha una lunga esperienza, è la preside di una scuola di Bologna, che è una delle cosiddette scuole di frontiera, insomma una scuola di uno di quei quartieri dove si incrociano moltissime etnie e gli italiani sono nettamente minoritari. e si tratta di una persona che da molti anni vive e lavora in questa realtà e conosce molto bene la realtà giovanile dei ragazzi, dei minorenni, i loro problemi di integrazione tra loro e di integrazione col mondo italiano. Mm-hmm. Per cui ecco, questa vuole essere un po' una mattinata di riflessione proprio a favore degli studenti, del mondo studentesco. E la mattina dopo invece ci vedremo una serie di dialoghi a tu per tu, una specie di tavola rotonda però costituita da dialoghi successivi che hanno come tema la censura nel mondo documentario e nel mondo dei media in generale, in Italia, insomma uno degli argomenti più caldi di questa stagione. E desideriamo approfondirlo per quanto riguarda non tanto la stampa scritta o la televisione a livello di telegiornali, ma proprio per quanto riguarda il racconto della realtà, cioè qualcosa che si può riferire anche ai discorsi che faceva Pannone prima sull'Aquila e tanto quanto si può riferire a casi abbastanza clamorosi come Citizen Berlusconi, che sarà uno dei film di cui parleremo ed è uno dei film più censurati negli ultimi anni, ormai è un film vecchio, no? Perché è del 2003, però sicuramente negli anni scorsi è stato uno dei film più censurati d'Italia, infatti in Italia deve ancora uscire, salvo per Sky, insomma, ma diciamo che sulle TV free non si è mai visto. Ecco, e insieme a quello altri titoli che saranno lo stato di eccezione di Germano Maccioni, che parla della strage di Marzabotto, argomento di cui mi pare oggi voi abbiate già parlato. Sì, con Giorgio Diritti. E poi ci sarà Alessandro Rossetto, l'autore del film Feltrinelli, che è stato clamorosamente censurato dalla Feltrinelli stessa, che gli aveva commissionato l'opera, poi una volta vista ha detto no, questo... Sì, mi ricordo, ne abbiamo parlato in trasmissione con lui. Infatti, e poi, ultimi ma non ultimi, come si suol dire, ci saranno Luca Bellino e Silvia Luzzi che ci racconteranno le storie di La Minaccia, il film che hanno appena fatto. Su Chavez. Esatto, di cui si è parlato abbastanza recentemente. Ecco, questa mattinata gli autori chiacchiereranno oltre che col pubblico con Nelson Bova, giornalista di Rai 3, con Paolo Soglia, altro giornalista che fa capo al vostro network, no, di Radio Città del Capo, e ci sarà Giacomo Manzoli, un docente del DAMS che insegna cinema documentario al DAMS, e ci sarà Giorgio Tinelli, altro docente dell'Università di Bologna, lui sta a Scienze Politiche e che parlerà appunto in specifico con Bellino e con la Silvia Luzzi di La Minaccia. E niente, poi nel pomeriggio queste proiezioni, che adesso sono nove, non ve le sto a nominare tutte perché sarei noioso, comunque potete andare a vedere, a cercarle sia sul sito della DER sia su Facebook, basta cliccare comunque sul motore di ricerca Doc Under 30 ed escono tutte le informazioni del caso. Bene. E poi la sera ci si trasferisce, come già facevamo nelle edizioni scorse, in un locale di Bologna dove continueranno, non stanchi, continueremo le proiezioni, e saranno proiezioni queste dedicate una sola proiezione a cui seguirà una discussione proprio sullo stato del fare cinema documentario, del produrre e del realizzare cinema documentario oggi in Italia, perché una proiezione sono una serie di interviste ad autori, a produttori, a personaggi che lavorano a pieno regime nel mondo del documentario, e da lì seguirà un po' il dibattito. Dopodiché alla fine di questo evento ci sarà la proiezione del film premiato dalla giuria popolare. Bene. Ecco, questo è un po' il quadro complessivo della due giorni. Sì. Allora Mario, i riferimenti internet ce li hai dati, per cui chi fosse interessato può seguirli anche in rete. In bocca al lupo e a risentirci presto. Il lupo. Grazie mille. Un abbraccio, ciao. A presto, ciao. Mario Chemello del gruppo organizzativo DER, direttore di Doc Under 30 a Bologna dal 23 al 24 ottobre. Ancora documentari. Monica Fatato, co-regista del documentario La voce di Stratos, benvenuta. Ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, insomma. Tutto bene, bene. Allora, io fa un freddo incredibile. Allora, oggi a Roma, oggi e domani, 21 e 22 ottobre, il tuo documentario sarà proiettato al nuovo Cinema Aquila, La voce di Stratos, Demetrio Stratos, raccontaci un po'. Ma diciamo che, vabbè, innanzitutto al nuovo Cinaquila hanno deciso di darci maggior spazio, nel senso che le proiezioni appunto non saranno solo quelle di oggi, cioè di ieri e di domani, ma abbiamo ancora il 24, il 25, il 26, il 27, il 28, fino al 29 ottobre saremo presenti con orari diversi nella programmazione del nuovo Cinema Aquila. Ah, quindi ci sono stati sviluppi. Ci sono stati degli ottimi sviluppi. Bene, bene, bene. Dici un po', allora, per chi all'ascolto e non conosce la figura di Demetrio Stratos, una voce incredibile che ha fatto anche la storia della nostra musica, raccontaci un po' del personaggio. Ma insomma, è difficile raccontare la figura di Demetrio Stratos in poche parole. Sicuramente Demetrio Stratos è stato, a nostro avviso, una delle figure più importanti della sperimentazione musicale, non solo da noi ovviamente, ma anche dalle persone che hanno testimoniato, tra l'altro anche nel documentario, dell'intera musica del Novecento italiano, pur lui stesso non essendo un italiano, perché era appunto è nato ad Alessandria di Egitto, ma è di famiglia greca. Sì. Ovviamente molti lo conoscono come frontman, come leader del gruppo Area, che insomma è stato tra i gruppi più innovativi della musica degli anni 70. Uno dei più importanti del progressive italiano, insomma. Assolutamente, solo. Anche se la definizione di progressive nel caso degli Area mi sembra un po' riduttiva. Sì, hai ragione. E anche un po' in qualche modo è un modo, un'etichetta che gli è stata insomma se la sono trovati addosso in realtà un po' dopo gli anni 70, quindi sì. Diciamo metteva insieme un bel po' di contaminazione, un bel sì. po' di tipologie di musicalità. Altri, diciamo, le persone un po' più grandi lo ricordano per come il cantante dei Ribelli, la famosissima Fondi Tutti. Dopodiché la parte a nostro avviso più importante e parlo anche per Luciano D'Onofrio, che è coautore di questo documentario, è quella che riguarda la figura di Stratos come sperimentatore vocale, ed è quello che tra l'altro lo rende anche un personaggio così interessante anche all'estero. Sì, sì, sì. Nel senso che noi abbiamo proprio riscontrato che all'estero cioè è conosciuto Demetrio Stratos come sperimentatore della voce pura, che era cosa a cui la ricerca al quale lui in qualche modo ha percorso dall'inizio alla fine prematura della sua carriera. Ed è il tratto che viene ricordato con maggior interesse e cura, mi sembra. Sì, diciamo che la voce è il filo conduttore del documentario, sì. La voce di Stratos, ovviamente trattandosi della storia della sua voce, però in qualche modo abbiamo cercato di indagare la voce umana anche affrontandola dal punto di vista, dallo sguardo degli scienziati e quindi da foniatri e da parte di musicisti della scena contemporanea, ma quindi da un punto di vista artistico. Dopodiché ovviamente gran parte, diciamo, della storia, essendo il momento, diciamo, degli area, quello più importante comunque anche da un punto di vista di quantità di cose fatte nel lavoro di Stratos, ovviamente gran parte è dedicata agli anni 70 e quindi quello che hanno rappresentato. Soprattutto abbiamo cercato, e questa è una cosa del quale siamo molto contenti, quando insomma ci capita di proiettare il film e di parlare con chi ha vissuto quegli anni, ci è capitato di riscontrare insomma molto consenso, soprattutto nell'essere riusciti a ricreare l'atmosfera della creatività di quegli anni, degli anni 70, sì. Ed è quell'anima degli anni 70 che in qualche modo viene messa da parte parlando degli anni 70 solo ed esclusivamente come anni di piombo. Mm-hmm. Quindi no, senti, questo è sicuramente uno dei motivi per i quali ci riteniamo contenti, insomma. Monica, una curiosità, parlavi delle interviste che avete realizzato, a chi, insomma, raccontaci un po' di cosa si tratta, come si sono svolte, chi avete cercato, chi avete intervistato? Ma allora, la prima persona che noi abbiamo cercato quando abbiamo deciso di iniziare questa ricerca, perché poi quella è stata la moglie di Stratos, quindi diciamo che il suo aiuto, il suo supporto, le sue puntuali annotazioni anche che ci venivano fatte da parte sua sul nostro lavoro sono stati per noi un punto di riferimento fondamentale, sì. Anche per essere corretti nei confronti di quello che ha fatto Stratos nel modo più, insomma, seguendo le sue indicazioni. Dopodiché ovviamente abbiamo intervistato i restanti area, quindi Patrizio Fariselli, Patrick Givas, che è stato il primo bassista degli area, Aresta Volazzi, Paolo Tofani, il chitarrista, e quindi questo per quanto riguarda gli area. Dopodiché, per raccontare l'atmosfera degli anni 70, abbiamo anche raccontato i luoghi che maggiormente gli area hanno frequentato, quindi da Radio Alice, che è stata la prima radio, tra le prime radio libere in Italia, piuttosto che abbiamo intervistato, appunto, come dicevo prima, per dare questo sguardo scientifico, abbiamo intervistato Schindler, che è un luminare della scienza, anche fondatore della foniatria, e poi una serie di artisti della vocalità contemporanea, quali John DeLeo, Fatima Miranda, John La Barbara, insomma, che in qualche modo rappresentano alcuni delle voci, poi ce ne sono sicuramente altri che ci è capitato di, abbiamo scelto di intervistare a questo proposito. Bene. Allora, volevo chiederti anche, c'è un sito internet o in rete si trova qualche riferimento al tuo documentario? Assolutamente sì, noi insomma da un bel po' che abbiamo messo in rete questo blog, dove ci sono quello che viene più frequentemente aggiornato, che si trova all'indirizzo lavocestratos.blogspot.com. Dopodiché c'è anche un sito che è stratos.rutone.it, e poi insomma, mettendo sul motore di ricerca la voce Stratos, iniziano a comparire fortunatamente riferimenti al doc. Un po' di riferimenti. Bene. Sì. Allora, da oggi fino al 29 al Nuovo Cinema Aquila, dico bene? Esattamente, sì. Benissimo. In bocca al lupo e a risentirci presto. Grazie dello spazio e buona giornata. Grazie anche a te, ciao Monica. Monica Fatato, coregista del documentario La voce di Stratos, al Nuovo Cinema Aquila qui a Roma da ieri fino al 29 ottobre, quindi ci sarà modo per chi volesse di seguirlo. Ultimi due contatti, dovremmo farcela. Thank you. voi. Ben ritrovato a Rodrigo Diaz, direttore della 24esima edizione del Festival del Cinema Latinoamericano a Trieste da sabato 24 ottobre fino al 1 novembre. Esatto. Eccoci qui. Allora, come va? Bene. Fervono i preparativi? Naturalmente, sì. Allora, quest'anno cosa vedremo? Vedrete sempre cinema prodotto da poco, cinema che non approda in Italia. Vedremo una bella retrospettiva di Rogerio Di Canserla, l'italiano italo-brasiliano che va nella sezione Oriundi. Sì. Vedremo tanto film che riguarda la musica, che riguarda la Spagna, che riguarda gli ebrei, che riguarda le scuole del cinema dell'America Latina, che riguarda il Bicentenario, che è un programma che abbiamo d'accordo che riguarda l'accordo che abbiamo con la Farnesina, che quest'anno sarà modesto, saranno tre film sul Bicentenario. Il prossimo anno dovrà essere una finestra molto ampia che come dire, proporrà questa ricorrenza importante dei 200 anni dell'indipendenza dell'America Latina e della Spagna. Mm-hmm. È un programma che il Ministero degli Esteri italiano sta preparando per dare il proprio contributo, visto il vincolo storico solido che ha questo paese con il continente latinoamericano. Vedremo tanta memoria nel cinema, vedremo tanta letteratura nel cinema, vedremo finalmente una enorme rassegna sul cinema colombiano, sul cinema guatemalteco, maggiormente documentari e mediometraggi, no? Sì. Però sono del Guatemala, è raro avere del materiale. Sì, della sì, Colombia sì. No, perché la Colombia credo che dopo i tre paesi con più tradizione, cioè l'Argentina, il Brasile e il Messico, credo che la Colombia e il Cile siano i due con più salute oggi nella produzione cinematografica di questi ultimi 5-6 anni. Rodrigo, ci saranno anche ospiti i registi delle opere? Dunque, abbiamo un pezzo grosso, una chicca. Noi presentiamo in avant-première in Italia La vita loca di Cristian Poveda, il sì. regista franco-spagnolo ucciso nel Salvador il 2 settembre scorso. Grazie alla Fandango, che ci ha autorizzato di proiettarlo, perché in realtà loro hanno comprato i diritti per l'Italia, il film approda per la prima volta, è un film crudelissimo, terribile, che racconta queste pandiglie, cioè questi gruppi organizzati di giovani, che sono, di cui si ipotizza che siano tra 60 e 100.000 persone, che sono organizzati della malavita salvadoregna. Uh-huh. E che Poveda ha fatto questo documentario raccontando la loro vita, ma raccontando innanzitutto le cause per cui questa gente è condotta a questo tipo di comportamento: l'esclusione, la miseria, la fame, la promiscuità e così via. Purtroppo nel dover far vedere quello che sono, sicuramente avrà riportato sullo schermo a qualche capo di queste maras, che non lo ha perdonato e l'ha ucciso, perché quella gente ragiona solo con l'arma in pugno. Mm-hmm. Rodrigo, quante opere proporrete al festival quest'anno? Credo che siano 165. Abbiamo dovuto accorciare un po' per una serie di ragioni, non ultima quella economica, però va bene, cioè non è. L'anno scorso avevamo esagerato con 215, chissà in una città come Milano, come Roma, forse 215 si possono giustificare, sicuramente a Trieste, come dire, per l'utenza, per tutto, magari non so quanto si possa giustificare, però comunque il triestino sa che questo è un privilegio, che si può godere per ogni anno, scoprire a tutto campo il continente, senza nessuna ricetta, raccontando tutti i generi, tutti i formati, tutte le durate, no? Sì. Tutte le problematiche, tutte le aspirazioni, i sogni, la memoria, tutto. Rodrigo, avete suddiviso in sezioni questa kermesse, sì, questo festival? Sì. Mm-hmm. Sì, abbiamo, innanzitutto gli eventi speciali, dove abbiamo per esempio un omaggio a Alicia Alonso, eventi speciali, un film su Juan Octavio Prens, che è un scrittore argentino che insegna qui a Trieste, che ha tutta una storia vincolata alla Jugoslavia negli anni normali della Jugoslavia. argentino d'origine, più volte scappato dal suo paese, docente all'università qui da 20 anni. È stata una storia molto interessante, molto bella quella di Prince. Poi abbiamo il concorso sono 13 opere di recente produzione, che naturalmente non sono approdati mai in Italia. Sì. Poi c'è un grande contenitore che abbiamo creato dall'anno scorso, che si chiama Contemporanea, e all'interno ci sono circa 90 film. Poi c'è il premio Oriundi a Rogerio Ganserla, originario delle province di Verona e Mantova. No, di lui presentiamo 13 opere. In Europa hanno fatto più omaggi a lui, in due per la verità, ma nessuno ha rilevato la sua origine italiana. Poi facciamo il premio Salvador Allende, quest'anno i cileni, infatti verrà un'altra autorità cilena a conferire il premio, lo dedichiamo in memoriam a Bettino Craxi. Lui ha fatto tante cose per il Cile, ha segnato la battaglia politica nel mio paese, fu il primo dirigente politico europeo a recarsi sulla tomba di Salvador Allende. E un riconoscimento, un grazie, anche se non c'è più fra di noi, era doveroso, e il governo cileno lo ha incoraggiato, ed è per questo che saranno autorità importanti del Cile, del governo cileno, a recarsi a Trieste. Poi abbiamo un'altra chicca molto importante. Noi da quest'anno abbiamo istituito il premio Malvinas. Il premio Malvinas, quando dico Malvinas non occorre che dica Argentina, perché in Europa si dice Falkland, ma la storia e la memoria e il diritto ci inducono a chiamarle Malvinas, e quindi è un premio che conferirà una giuria di docenti universitari al film che meglio esprima i valori che nel promuoverle, cioè nel trattare un film, sono valori che portati a un conflitto di quel tipo evitano una guerra. Uh-huh. Oltre ai valori che hanno a che fare con il neocolonialismo, oppure con l'ignorare la storia, oppure con l'ignorare il diritto internazionale. Quindi è un premio in positivo, che lo abbiamo fatto d'accordo con le autorità argentine. È un'anomalia, perché in realtà a nessuno in Argentina e in giro per l'America Latina gli è venuto in mente di proporre un premio di questo tipo. Noi lo facciamo per una ragione semplicissima: dall'inizio abbiamo sempre voluto contestualizzare il continente in Italia, e quindi rapportare attraverso, come dire, il cinema, la realtà del continente, di ieri, di oggi e i sogni del domani. Rodrigo, c'è un sito internet chiaramente dove visionare il programma? Certo, ci sono, anzi ti do due. Uno per visionare il programma e uno per vedere circa 84 film che saranno messi in internet. Allora, per sapere del programma puoi andare a www.cinelatinotrieste.org. Sì. Cinelatinotrieste.org. Per vedere i film, 84 credo che siano quelli che ci hanno autorizzato, occorre andare a www.arcoiris.tv. Molto bene. Quindi Arcoiris, Rodrigo Vergara, ci dà questa mano, ci siamo incontrati, ci siamo capiti, e da 3 anni proponiamo ogni anno quasi la metà dei film. E c'è il premio del pubblico in rete, e quindi la gente può votare, vedere, può votare, e c'è un premio naturalmente pecuniario per le 3 prime opere che hanno il maggiore consenso della gente. Rodrigo, in bocca al lupo, a risentirci alla prossima. Grazie mille e buon proseguimento di giornata. Ciao anche a te. Ciao, grazie mille. Rodrigo Diaz, direttore della 24esima edizione a Trieste del Festival del Cinema Latino Americano. A Trieste da sabato 24 ottobre al 1 novembre. Abbiamo ancora un collegamento da fare e poi ci salutiamo. Di nuovo con Patrizia Salvatori, eccoci qua, cara. Ciao, ciao caro Federico, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Allora, Cineclub Alphaville che propone una rassegna Polanski, un dibattito chiamato Roman. Sì. Da ieri fino al 26 ottobre. Sì. Raccontaci un po'. Dunque, abbiamo pensato di proporre questa rassegna per un motivo molto semplice, prima di tutto perché veramente prima ancora del caso Polanski che è successo in questi ultimi tempi, in realtà a noi piace molto come regista e avremmo voluto comunque farlo vedere. Sì. Poi detto sinceramente, Alphaville predilige molto i primi film di Roman Polanski. Sì. Ed è questa selezione che noi abbiamo, diciamo, operato, quindi siamo partiti proprio dal primo film, ieri c'è stato appunto Il coltello nell'acqua. Poi è successo quel che è successo, eravamo un po' in imbarazzo, non sapevamo che cosa fare, se proporlo o no, ma poi sì, ci siamo anche quando ci siamo sentiti ne abbiamo parlato di questa, esatto, ti ricordi Federico? Sì, no? Sì, sì. Però poi ti dico la verità, poi abbiamo pensato, Alphaville comunque ha pensato di proporlo perché comunque Roman Polanski è un artista. E tutto quello che è successo in questa sua travagliatissima vita, perché fosse questo l'unico episodio grave, ce ne sono stati di gravissimi nella sua vita e spero che a questo punto non ce ne siano ulteriori, forse sta anche tutto all'interno delle sue, dei suoi film, probabilmente questo suo travaglio psicologico, questo suo modo di essere e di narrare sta in alcuni suoi film, se non oserei dire in tutti, in alcuni in maniera più particolare. Vi ricordo insomma che comunque Polanski ha avuto anche i genitori a Mauthausen morti ad Auschwitz, la moglie morta nel 69 in quella tremenda cosa americana, le Ku Klux Klan, eccetera eccetera. Quindi forse ci è sembrato comunque che potesse essere interessante analizzare la sua figura di artista anche attraverso le sue scelte appunto cinematografiche sin dalle origini, che forse sono le più significative, ecco. Sì, sì. Devo dire che mi è sembrato, e qui l'abbiamo fatto in perfetta buona fede, io ho un mio giudizio personale sulla vicenda Polanski, quella che ormai sulla quale ci dibattiamo da 30 anni, ma è una cosa mia personale. In realtà il vero motivo per cui abbiamo fatto vedere lui è perché A ci piace moltissimo, B resta un grandissimo regista, lo è sempre stato, e probabilmente C è possibile attraverso i suoi primi film in particolare comprendere un po', come dire, la sua necessità di fare cinema, ma anche la sua necessità di essere artista e la sua complessa, secondo me, psicologia, ecco. Sì, poi recentemente c'è stata anche una serie di cineasti che si sono schierati in favore della sua liberazione. Però il passo che avete fatto voi mi sembra che venga prima, che è quello, conosciamo intanto il suo lavoro, poi sì, si può discutere sulla figura, cioè prima di dire se è giusto o sbagliato, io non mi sento, guarda, non è questo lo spirito con cui Alphaville ha affrontato il Polanski, sì, d'antan, sì. no, è proprio rivediamo insieme i film, ecco, rivediamo insieme il suo percorso d'autore. E poi a quel punto ci possono venire in mente delle cose, prima ancora di schierarsi, dico, ecco, ci può venire in mente, ci può sembrare più chiara, ci si può delineare maggiormente la sua figura, d'autore innanzitutto, che dal mio punto di vista è ineccepibile, e comunque anche di uomo, prima ancora che d'artista, insomma. Va bene, allora i titoli quanti sono? Guarda, di quelli proposti? I titoli sono sei, sì. E sono, diciamo, sono proprio i titoli delle origini, quindi partono praticamente dal primo film che abbiamo visto ieri. Comunque ieri poi noi abbiamo letto, voglio ricordare, sì. Io, Polanski e la ragazzina, che è stato che era un'intervista racconto pubblicata nel 1979 dello scrittore Martin Amy, cioè un'intervista appunto che lui fece a Polanski all'epoca, in cui già si parlava ovviamente dell'accadimento grave, insomma, che c'era stato. Quindi voglio dire, questa noi l'abbiamo letta proprio integralmente, ha una saletta insomma che ha risposto al nostro appello di ripensare a Polanski. Domani stasera c'è Repulsion. Però scusa, apro una parentesi per chi all'ascolto e non conosce la vicenda, è stato arrestato in Svizzera Polanski per l'accusa di uno stupro avvenuto 30 anni fa ad opera sua nei confronti di un allora minorenne. Sì, e va detto anche insomma che molte poi sono come dire, i lati oscuri, molto diciamo i lati oscuri e anche a tratti pure trasparenti per la verità di questa vicenda, di cui lui per primo insomma si incolpò all'epoca, poi è scappato e come sappiamo nella giustizia americana il contumace resta comunque appunto in attesa di un processo o comunque deve essere processato. Sì. Poi sono passati questi 30 anni, io lo dico molto francamente Federico, 30 anni in cui sembra che tutti si siano dimenticati di questo reato grave. Sì. E quindi sono stati conferiti premi, ha preso l'Oscar, ha preso un sacco di premi e via discorrendo. Poi appunto è successa questa, quel che è successo, in Svizzera è stato arrestato, adesso pare che sia stato, che stia male, non lo so, non ho capito bene, pare insomma che abbia dei problemi di salute, comunque è stato arrestato in Svizzera ed improvvisamente ci siamo ricordati tutti di questo fatto che già peraltro sapevamo da prima. Sì, sì. Allora, quello che io dico, ripeto, non ho nessuna intenzione di esprimere né in quanto me figura, né in quanto Alphaville un giudizio in tal senso, dico soltanto che prima di mettersi da una parte sì, o dall'altra sì, forse sì. È il caso di guardare che cosa ha fatto sì. E a maggior ragione probabilmente i suoi primi film che vengono da un periodo travagliatissimo della sua vita appunto e che forse in qualche modo ci possono spiegare, non sarà facile chiaramente, ma ci possono far intravedere il tipo di personalità e quindi forse ci fanno anche comprendere cosa è successo, se in che termini è successo e a quel punto forse si può anche decidere da che parte stare. Sì. Allora Patrizia, scusa, ti avevo interrotto, continuiamo rapidamente con le opere che proporrete e poi noi proporremo questa sera Repulsion sì. Con la grande Catherine Deneuve. Una delle sue migliori interpretazioni secondo me. Assolutamente Federico, sono d'accordo proprio con te, ma a me questi film di Polanski prima maniera sinceramente mi affascinano proprio. Sì. Poi c'è Cul de Sac venerdì, sì. Che è questo film claustrofobico, insomma, piuttosto teso come tutti i suoi film, inquieto, eccetera, eccetera. Poi c'è il famoso Rosemary's Baby, Fiocco, non mi ricordo se è Fiocco Rosa New York. Fiocco Rosa New York. Di sabato, che è una riproposizione di questo film tra virgolette diabolico. Domenica c'è Lo Splendido, io lo dico perché amo molto chi ha sceneggiato L'Inquilino del Terzo Piano, che è il grande sceneggiatore, fantasista, letterato Roland Topor, che io amo particolarmente, che con lui fece L'Inquilino del Terzo Piano, angosciante, uno dei suoi migliori film secondo me, assolutamente anche per me Federico. Ma poi voglio concludere dicendo che proprio su questi temi noi abbiamo selezionato per lunedì prossimo sì. Un praticamente film del 1995 di Roman Polanski che attrae molto lo spettatore da sempre, ma che in questo momento particolare forse è bene rivedere, che è Il rapporto tra vittime e carnefice di La morte e la fanciulla. Che è un film splendido, sì, io sì. Te lo dico Federico sinceramente, chiunque non l'abbia mai visto, è un film sì, splendido sì. In cui questo rapporto di una donna torturata in un paese sudamericano non ben identificato, cioè nel film interpretata da Sigourney Weaver, crede di aver trovato a casa sua il suo antico torturatore del periodo appunto dittatoriale e decide di fargli un sommario processo. Ecco, questo film e questo rapporto mi sembra indicativo insomma. E Carnefice l'abbiamo, guarda, sì, credimi, sì, l'abbiamo sì, proprio sì, voluto sì, mettere sì, con sì. La sensibilità di chi cerca di comprendere un po' di più da un uomo, da un artista e dalla vicenda che è grave, appunto gravissima, che si è perpetrata insomma. Patrizia, un abbraccio e a risentirci presto. Ti abbraccio anch'io, ciao, a presto. Ciao, Federico, ciao. Una sola cosa volevo Dimmi. Dire. Noi siamo Alphaville martedì, quindi lo dico adesso perché poi non avrò più tempo, al Caffè Emporio martedì prossimo con una serata Generation. Chiunque voglia venire, insomma, è libera la serata. Bene. Allora sul sito troverete. Purtroppo sì, in questo momento è oscurato, okay. Però sul sito va oppure bene. Arriveranno delle mail comunque. Va bene. Grazie Federico. Ciao, grazie abbraccio. A voi. Ciao ciao ciao. Noi siamo in chiusura, questa era Patrizia Salvatori del Cineclub Alphaville per la rassegna Polanski, un dibattito chiamato Roman fino al 26 ottobre. Baci, abbracci, buon proseguimento con la seconda società e noi ci si sente giovedì prossimo sempre alle 14 sugli 87.900 modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Tutte le info sul sito www.ondarossa.info.